Questo discorso inizia con Matovu Ohalecha Yaakov, Mishkenotecha Yisrael. Questo è un discorso di Hasidut che pronunciò il Rebbe Yosef Yitzchak, il sesto Rebbe di Lubavitch, il suocero del Rebbe, in occasione del 12 e 13 di Tammuz, nell'anno Tafresh Pei Tet, significa 1929. Cos'è questa occasione? Un festeggiamento del giorno in cui era stato rilasciato dalla prigionia dagli sovietici. E ogni anno si segnava e si segna ancora nei Hasidim questo giorno come un giorno di Geulah, di redenzione del Rebbe Yosef Yitzchak. E lui in quell'occasione recitava un discorso originale di Hasidut. In questa situazione il versetto con il quale ha aperto il discorso era tratto dalla Parashah di quella settimana, che è la Parashah di Balak, dove noi leggiamo nella Parashah di Balak le profezie del profeta idolatra Bilam, che era stato ingaggiato da Balak a maledire Amisrael, e a Kadosh Baruch Hu gli ha messo in bocca tutte delle bellissime berachot, benedizioni. Gli ha fatto trasformare la Kelalah, la maledizione, in Berakha, in benedizione. Allora, una delle Berakhot più famose, uno dei versetti più famosi della profezia di Bilam, è proprio questo qui che vediamo all'inizio qua del discorso: Matovu ohalecha Yaakov, mishkenotecha Yisrael. Traduciamo: Matovu, quanto sono buone, disposte bene, ohalecha, le tue tende, o Giacobbe, Yaakov, quindi riferendosi ad Amisrael. E la seconda parte del versetto, Mishkenotecha, le tue dimore, Israele. Famosissimo versetto. Veamru, Rabboteinu, Zichronam, Livracha. I nostri maestri, commentando questo versetto nella Gemara di Sanedrin, dicono, Mi birchato shelotto rasha, atalamed ma haya belibo. Dalla berachà che lui ha dato, tu puoi capire quale sarebbe la maledizione che avrebbe voluto dare e che è stata appunto trasformata in Berakha. Lui cosa voleva in realtà dire? Dice la Gemara, Bikesh Lomar, quello che avrebbe voluto dire è Shelo yiyelahem batei knesiot u batei midrashot, che gli ebrei non abbiano luoghi di batei kneset, quindi luoghi di tefilah, e luoghi di Batei Midrash, luoghi di studio di Torah. E quindi, al contrario di questo pensiero, gli è venuto fuori Matovu Ohalecha Yaakov. Quindi Ohalecha Yaakov, in altre parole, è un riferimento non solo alle dimore, alle tende delle case, ma in senso più profondo a Batei Midrashot e Batei Knesiot, ai templi e alle case di studio. La seconda parte del Pasuk, del versetto, Bikesh Lomar, Lo tishre shechina alehem, lui avrebbe voluto dire che la shechina, che la presenza divina, non si posi su di loro nel loro accampamento, come poi è stato nel Mishkan, nel santuario nel deserto, che si è sì posata la shechina tra di loro, e in corrispondenza a questo ha detto l'opposto. Amar disse, Mishkenotecha Yisrael. Cioè, Mishkenotecha, le tue dimore, allude al Mishkan, al posarsi della presenza divina tra di loro. Allora, la prima parte, dicono i maestri, sarebbe un riferimento a Bet Knesset e Bet Midrash, e la seconda parte al Mishkan, al Bet HaMikdash, alla presenza di HaKadosh Baruch Hu nel mezzo di Am Yisrael. E come appunto adesso vediamo, Veine, Ohalim, le tende è un riferimento Kael al-Aholei Torah Utfilah, le tende, i luoghi in cui si studia la Torah e si fa la Tefilah, come vediamo nella Parashah che abbiamo letto stamattina, che Moshe Katuv, Ve'Yaakov Ishtam, Yaakov era una persona integra, Yoshev Ohalim, che rimaneva all'interno delle tende. E i maestri dicono cosa significa all'interno delle tende? All'interno delle regole, all'interno I maestri dicono tanto Aholei studiato. Shem Va'ever, nella yeshiva, nella casa di studio, è luogo di preghiera. Quindi contrapposto ad Esav, che era l'uomo del campo, Jacob era l'uomo dell'interno, che rimaneva all'interno delle tende della però Kedushah. Potrebbe essere visto anche all'interno delle regole, all'interno appunto. Sì, potrebbe essere, però i maestri dicono così. Specifico così. Sì. Ora, entriamo un po' nel senso di questa cosa che abbiamo visto. Facciamo alcune domande che in realtà sono come delle domande retoriche per entrare in un discorso più profondo. Quindi non è necessario adesso trovare la risposta alla domanda che faremo, è più per entrare nel discorso. Quali sono le domande? Bezarich lehavin, bisognerebbe capire. Lama mechalek batek nesiotu midrashim, da una parte distingue, nella prima parte del versetto, i maestri dicono allude al tempio e alla casa di studio, alle yeshivot, e dall'altra parte veashra atashchina, l'altra parte il posarsi della Shekhinah, Mishkenotecha Israel, allude al posare della Shekhinah. E li distingue gli shnei inyanim, sono due concetti diversi, uno all'uso nella prima parte e uno all'uso nella seconda parte. E al tempo stesso, un meyaches batek nesiotu midrashim le Yaakov, l'aspetto della casa di studio e di Tefilah è associata al nome Yaakov, mentre l'aspetto del posarsi della Shekhinah è associato al nome Israel, ve'ashra'at ha'Shekhinah le'Israel. In teoria è difficile capire il motivo, perché Be'emet, in realtà, hem inyan echad, dovrebbero essere considerate una sola cosa importante, perché il concetto interiore di un Bet Knesset è un piccolo Bet Mikdash, quindi è in minima parte, ma come concetto interiore alla sua anima, è uguale al concetto del Bet Mikdash, quindi perché distinguere? De batei knesiot hem Mikdash me'at, i maestri dicono che il luogo di Tefilah è considerato un piccolo Mikdash, cioè un mini Bet Mikdash, per così dire. E poi i maestri dicono anche, akol be'asara shechinta sharia, la Shekhinah si posa su ogni luogo in cui si riuniscono 10 Yehudim. Non solo nel Mishkan, ma anche in qualsiasi luogo in cui si uniscono 10 Yehudim. Allora, il concetto del Mishkan, del posarsi della Shekhinah, della presenza divina, è sempre valido. Non solamente in quella struttura. Batei Midrash, abbiamo parlato delle case di Tefilah, ma anche le case di studio, le yeshivot, batei midrashot, hem ahauletora, sono appunto le tende in cui si studia la Torah, ushchinah sheruyasham, e anche lì è scritto, come vedremo, che la Shekhinah si posa laddove si studia la Torah. E allora, imken, se è così, lama mechalkam bevet inyanim miyuchadim, perché vengono fatti distinguere come se fossero due concetti distinti l'uno dall'altro. Ora, senza entrare subito ad affrontare queste domande, ora dice che bisogna prima anticipare un altro concetto per entrare nella profondità. Qual è questo concetto? Ule havinze, per capire questo, yesh le hakdim, bisogna anticipare la spiegazione di quanto è scritto, trila, prima, mashekatuv. Quanto è detto questa volta nel Tehilim, è detto nel Tehilim, nel Perek Samech, nel Salmo numero 60, Natata lireecha nes lehit noses, hai dato in mano a coloro che ti temono, hai donato loro un vessillo per elevarsi, nes, un vessillo, una bandiera per elevarsi, mi pennei koshet sela, perché la verità prevalga, koshet è la verità, koshet imremet, koshet la verità, che la verità prevalga per sempre, sela per sempre. Ora, noi abbiamo tradotto nes come vessillo, ma in realtà ci sono diverse interpretazioni nelle parole dei nostri commentatori maestri su come si interpreta la parola nes. Ora vediamo. Peresh Rashi, se guardassimo il commento di Rashi, vediamo che è scritto Natata lirecha nes, lui traduce nes, nisyonot, nisayon significa delle prove, nisyonot plurale, delle prove, nes come prova, nisyonot shelzarot arbe, hai dato a coloro che ti temono molte prove, molte sofferenze che sono come, fungono da prova. Le hitnoses, cosa significa l'hitnoses? Liot menusim bahem, perché siano messi alla prova attraverso queste onnes, attraverso queste prove, im ya'amdu beiratcha, se nonostante la sofferenza e la prova comunque rimangano timorosi di te, di HaKadosh Baruch Hu. Quindi la prova è uno strumento attraverso il quale HaKadosh Baruch Hu vede se noi, nonostante quella situazione di difficoltà, rimaniamo attaccati al timore di Hashem. Quindi Vehainu significa che Rashi ha tradotto la parola Nes, De Peresh Nes, Milashon Nisayon, dal termine prova. Questa è la prima spiegazione. Andiamo a un altro commentatore. Uvim Tzudat David, famoso commentatore del Nevi'im Ktuvim, Metzudat David, dice Peresh Nes, Milashon Hagbaha Veharama, che la parola Nes invece indica un innalzamento e un'elevazione, come la parola che abbiamo tradotto prima, vessillo, Kannes Hagavoa, come il vessillo che viene posto in alto e funge da segno e da punto di riferimento, eccetera. E qual è allora il senso di questo versetto, secondo questa interpretazione? Perush natata lirecha Nes, quando dice il versetto hai dato a coloro che ti temono un vessillo, Nes le itnoses, significa me ata, che da ora ti ten lirecha, Kadosh Baruch Hu, tu dai a coloro che ti temono, harama, un'elevazione, li fai elevare, li poni in alto, su un'altezza, li trommem baulam, che siano elevati nel mondo, agli occhi di tutto il resto del mondo, guardano in su a coloro che temono a Kadosh Baruch Hu, vengono posti in alto. Okay? Quindi è un po' un contrario di quello che dicevamo prima. Prima vieni messo sotto la sofferenza come prova, adesso dice no. Nes significa un'elevazione, vieni posto in alto rispetto a tutti gli altri. E ora il maestro Rabbeinu, il Rebbe Yosef Yitzhak, dice che entrambi questi commenti in realtà sono tratti dal Midrash. Rashi ha preso un Midrash e il Metzudat David ha preso un altro Midrash. Shnei Aperushim hume Midrash. Entrambe queste Midrashim sono nel Midrash di Bereshit Rabbah, dove c'è scritto Shemefaresh Nes Litnoses, che spiega la parola Nes, appunto, Nisayon achar Nisayon, perché il versetto è come se si ripetesse, Nes lehit noses. Allora il Midrash dice Nisayon achar Nisayon, una prova dopo l'altra, ok? Una che segue l'altra. E poi subito dice l'altra spiegazione, Gidulin achar Gidulin, Nes dal senso di vessillo, quindi una cosa che viene messa in altra, quindi Gidulin, crescita, crescita lehit noses, crescita dopo crescita. Bishvil, e dice che entrambe le cose non sono una contraddizione. Bishvil le nasotan baolam, per metterli in questo mondo alla prova, che questo a sua volta, questa prova fa sì che una volta superata, Bishvil le gaddelan baolam, questo stesso li rende grandi. Quindi cos'è che ci rende grandi? Cos'è che ci pone in alto? Proprio la prova che viene messa davanti a noi e che viene superata ci fa arrivare più in alto. Quindi le due cose non sono una contraddizione, anzi, una alimenta l'altra. Kannessa zeshel svina, come il vessillo di una nave. E poi approfondiremo tra qualche riga il senso del vessillo della nave. Prima di questo c'è una terza spiegazione della parola Ness. Abbiamo visto le prime due, di Rashi e di Metzudat David, abbiamo visto la fonte di entrambe le interpretazioni nel Midrash, quindi la prova e la grandezza, l'elevazione. Terzo perush, la perush ashlishi, il senso, la terza interpretazione del senso della parola Nes, humi lashon niflaot, Nes come miracolo, come usiamo anche spesso, Nes come meraviglie, niflaot, dignano, che in realtà al suo cuore è lo stesso concetto come il vessillo, qualcosa di alto, perché? Humashegavoa umeroma minateva, il miracolo è l'accaduto o l'evento che è al di là delle regole della natura, al di fuori di quello che regola la natura. Quindi è sempre una cosa che indica qualcosa di più elevato rispetto alla normalità delle cose. Fise, secondo questa terza spiegazione, qual è il senso del versetto? Pirusha katuvu, il senso è natata lirecha nes. Da una parte tu, HaKadosh Baruch Hu, hai dato a coloro che ti temono Nes, cioè Nisyonot, di nuovo prove, Shelzarot Arbe, delle molte difficoltà e sofferenze, e questo è per poter essere un Nes, cioè le Gadlan Baolam Kenes, per farli crescere e rendere più grandi nel mondo, agli occhi di tutto il mondo come un Neshel Sfinah, come il vessillo di una nave, Shehin Iret le Merachok, che è vista da lontano, che è visto da lontano, Vehainu, e qui approfondiamo un po' il senso della nave, l'esempio, la metafora, Le gambe maim rabbim shel mei hayam, anche nelle molte e tempestose acque del mare. Amatil Harada, cosa che getta un grande timore alla Yoshvim Basfina, su coloro che si trovano dentro la nave. In Ekeshem Shehanesh la Sfina, così come il vessillo della nave. Io medet bebitachon vechosek shemore alla romemut veagba'a. Guardano in alto al vessillo e vedono che rimane fermo, e quindi questo dà loro una certa tranquillità, perché vedono questa forza, questa fermezza e questa elevatezza del vessillo, altezza. Kach yire havaya, così anche chi teme il Signore, shehem yire echa, che sono quelli che è scritto nel versetto yire echa, coloro che ti temono, ondim chazak, rimangono come il vessillo, forti e fermi bavodatam betoram mitzvot, nel loro servizio della Torah e delle mitzvot, mi godel bitchonam, a causa della loro grande fiducia, bitachon in HaKadosh Baruch Hu, shehu bekoach shelemala minateva, che dà loro una forza che trascende la forza normale della natura, quindi come il Nes miracolo che è al di là della natura. Tutte e tre le spiegazioni insieme, diciamo. Ukmoshe katuv, e come è scritto, vaikra shemo havaye nissi, c'è scritto che Hashem Nisi, Avayaza Yud Kei Vav Kei, il Signore è il mio Nes, un Nes Shelanu, è come dire lui, Hashem, è il nostro vessillo. È come quando guardi in alto al vessillo della nave, noi guardiamo in alto al vessillo che è Kadosh Baruch Hu, tra virgolette, per noi, e in questa maniera rimaniamo fermi nella nostra bitachon e superiamo come un Nes al di là dei problemi, dei problemi che possono accadere, le nisyonot, le prove, eccetera, abbiamo la forza per rimanere fermi. Prego. No, pensavo praticamente che era così, guardando c'era appena, stava in cima alla montagna, e poi sì, quando c'era, bisognava guardare il vessillo perché c'era il serpente. Sì. Molto bene. Allora, vogliamo proseguire un po'? Sì. Ok. Pagina 2, secondo paragrafo. Beura inyan hu, per approfondire un po' di più questo concetto. Inektiv è scritto nella Torah ki menase Hashem Elokechem etchem ladat. Hakadosh Baruch Hu vi mette alla prova. Ladat, per sapere. Haishchem ohavim et Hashem Elokechem olo, c'è scritto nel versetto. Per sapere se siete davvero amanti del Signore o meno, se siete davvero timorosi del Signore o meno. Quindi HaKadosh Baruch Hu ci mette alla prova. Però il termine preciso che la Torah usa è da'at. E qui c'è un segreto nascosto perché si usa proprio il termine da'at, che adesso si spiegherà. Chi minasseh Hashem Elokechem etchem, poiché il Signore vi mette alla prova, la da'at, per arrivare, poiché voi poteste arrivare al livello di da'at. Cosa significa? Ora vediamo. Dal Yedei Anisionot, è proprio attraverso le prove che Ba'im Livchinat da'at, che la persona giunge ad arrivare a un livello che si chiama da'at. Cosa significa? Hainu, e cioè, Dagli dei shemit gabber al kol advarim, quando la persona si rafforza e supera le cose, hammonim, che fanno evitare, che ostruiscono, meakvim, meavodat Hashem, distraggono dal servizio di Hashem itbarach, batorah utfila, vekiyum mitzvot, quando noi superiamo queste problematiche e queste distrazioni, inne al yedeze, attraverso questo superare, quindi andare oltre la prova, Magim si giunge la da'at et avaye, al conoscere il Signore. Da'at, quindi non nel senso semplice, il versetto dice il Signore vi mette alla prova poiché lui possa sapere se voi siete davvero con lui. Adesso noi stiamo traducendo in altra maniera il versetto. Il Signore vi mette alla prova perché voi potreste sapere, conoscere lui. Attraverso il superare la prova voi potete venire a conoscerlo. Quindi chi è che conosce la da'at? Nel senso letterale del versetto, il Signore che conosce se tu stai davvero con lui. Nel senso più profondo, sei tu che attraverso la prova giungi ad una conoscenza più profonda. La tua conoscenza di Hashem si approfondisce quando superi le prove. Quindi quando attraverso la sofferenza arrivi, giungi a un livello più elevato. E il termine, la da'at, conoscere, conoscere il Signore, conoscere Hashem, però usiamo il nome Havaya, il nome tetragramma, Yud-Kei Vav-Kei, a differenza del nome Elohim. Elohim rappresenta un livello di dimensione di rivelazione divina e Havaya, il nome tetragramma, rappresenta un livello molto più elevato. Elohim begimatria hateva. Dove è allusa questa cosa? Nel fatto che il nome Elohim ha la stessa gimatria, lo stesso valore numerico della parola Hateva, la natura. Cioè il nome Elohim rappresenta così come HaKadosh Baruch Hu si nasconde nella natura e non è evidente e visibile la sua presenza. Ve'alpi Hateva, quando si seguono le regole della natura, Arei Hasman ubeseder de'avar hoveve atid. Abbiamo per esempio la regola del tempo, dove ci sono i limiti di passato, presente e futuro. Haya hove viye, ve'aliedei hanisyonot, ma attraverso il superare le prove, magim la date tavaya. Si arriva ad un livello di dati, conoscenza che trascende il livello di Elohim e si lega al livello del nome divino più elevato, Havaya. Che cosa rappresenta questo nome? Havayahu haya hove veyye ke echad rappresenta una situazione in cui si trascende il tempo e lo spazio e quindi haya hove veyye era, è e sarà è come un'unica cosa, un'unica dimensione. Ve al yedei hanisyonot magim ladat et havaya davaya hu haya hove veyye ke echad shehu lemala minateva, che rappresenta la dimensione che è al di là delle regole della natura. Perché proprio attraverso la prova si arriva lì? Come arriveremo a spiegare? Nella prova si nasconde qualcosa di più elevato rispetto a quello che c'è nella normalità. Nella prova c'è una dimensione del divino che è talmente elevato che va a finire in un luogo molto basso. Come faremo più avanti l'esempio, o come il famoso esempio della mela che casca dal melo, quello che è più basso casca più vicino all'albero, quello che invece è più elevato ed è più alto casca più lontano dall'albero. Anche nella Kedushah applichiamo una cosa simile, e ovvero delle scintille, che approfondiremo il significato di queste scintille, delle scintille del divino meno elevate vengono in questo mondo in un modo più evidente, più vicino all'albero, tra virgolette, e quelle ancora più elevate in realtà cascano più lontano. Lontano significa più oscuro, più profondo nell'oscurità, nella non visione del divino, e attraverso la prova si riesce a tirare fuori quello che in realtà era nascosto più profondo, ma è molto più elevato. E allora la prossima volta approfondiremo questa dinamica della prova e faremo anche una citazione del Sefer Yetzirah, di una delle più importanti opere di Kabbalah, dove si spiega come questa cosa si esprime anche nelle lettere che formano le parole della Shona Kodesh. Alla prossima, se Dio vuole.